Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco è già qui con me, ciao Chiara. Buonasera Federico, buonasera a tutti, che onore all'inizio di trasmissione. Con le bombole subacquee, già pronta. Benvenuti e benvenute a tutte, ascoltiamo i titoli e poi incominciamo. Nuove rivelazioni dagli sport estremi. È stata scoperta l'embolia al fegato in seguito a immersioni a grande profondità. Una grande lite fra matematici di 5 secoli fa per colpa di una formula. Di mestiere fa il personal trainer di micronuotatori robot. Si alza la mattina, va in laboratorio e cosa fa? Lo chiediamo al diretto interessato. Da Dubai una proposta vincente per fare ricerca biomedica e avere successo nel mercato. La cattiva scienza, cioè quelle teorie infondate che per un qualche motivo riescono a farsi passare per scientifiche. Tra queste, la purificazione dell'organismo da ipotetiche sostanze nocive. Allora, dicevo bombole subacquee perché di questo dobbiamo parlare. Sì, Chiara, parliamo di ambiente estremo. Infatti abbiamo con noi il direttore del centro appunto Extreme della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il professor Antonio Labbate. Buonasera e benvenuto professore. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, parliamo di ambiente estremo perché parliamo di immersioni in profondità, in alta profondità. Professore, avete scoperto proprio in questi giorni una cosa abbastanza importante, che anche il fegato può andare in embolia. Ora ci deve spiegare un pochino il contesto, perché noi siamo abituati a pensare all'embolia come a delle bolle d'aria che passano dai polmoni, no? E comunque arrivano al cervello. Sì, il problema è questo, che l'embolia gassosa che si verifica nei subacquei quando ritornano in superficie rapidamente è un fenomeno che è conosciuto per i suoi effetti soprattutto sul polmone. Infatti queste bolle di gas che si formano nella microcircolazione in tutto l'organismo vanno a finire nelle vene e attraverso la circolazione venosa sono trasportate al cuore destro e da qui ai polmoni. Allora, siccome queste bolle hanno delle dimensioni che sono superiori a quelle dei capillari, che sono i vasi più piccoli del polmone, embolizzano, cioè si arrestano a questo livello. Questa è l'embolia classica. Che non comporta grossi problemi, perché una volta che le bolle sono a livello del polmone, vengono poi eliminate con l'aria espirata. Quindi soltanto in casi in cui queste bolle riescono a passare la barriera polmonare e finire quindi nella circolazione arteriosa, possono embolizzare altri organi importanti e allora vengono fuori problemi seri. E invece il problema del fegato, ecco, è sempre stato completamente ignorato e si è ritenuto sempre che il fegato fosse indenne all'embolia. Ora, qui è necessario fare una premessa sulla circolazione. Quello che vi ho detto vale per tutti gli organi, tranne gli organi addominali. Gli organi addominali, che sono pancreas, la milza e soprattutto l'intestino, confluiscono nella circolazione venosa soltanto dopo essere passati attraverso il fegato. Quindi per questi organi addominali esiste, prima dei polmoni, un secondo filtro che è costituito dal fegato. Allora, il problema è perché, se si creano delle bolle in tutto l'organismo, non si debbano creare anche nell'intestino, e se si creano nell'intestino, queste bolle dovrebbero embolizzare il filtro del fegato. E se voi cercate sui libri di medicina subacquea, questo problema proprio non esiste. E qualcuno anche riteneva che il fegato fosse indenne da questo fenomeno, perché le bolle, invece di essere portate al fegato, sono spinte nell'intestino e quindi vanno a far parte del contenuto aereo dell'intestino. Ecco, invece cosa avete osservato? Allora, noi quello che abbiamo fatto, abbiamo detto va bene, mettiamo su un modello sperimentale. Abbiamo utilizzato il ratto, abbiamo simulato delle immersioni mettendo il ratto in una camera iperbarica, abbiamo costruito una camera iperbarica miniaturizzata e abbiamo simulato un tuffo di 70 metri. Quindi una profondità di 70 metri. Ovviamente il ratto non è nell'acqua, è nella camera iperbarica dove viene aumentata la pressione a un livello equivalente a una profondità di 70 metri. Uh-huh. E dopodiché l'abbiamo fatto emergere, cioè abbiamo decompresso in maniera sufficientemente rapida da creare questa formazione di bolle. E quindi siamo andati a vedere nel fegato. Che cosa succedeva? Esaminando il fegato, cosa succedeva e se c'erano bolle oppure no. Ecco, la risposta è stata che bolle ce n'è tantissime. Quindi l'embolia del fegato esiste. Esiste. Ma sugli esseri umani non era mai stata osservata? No, sugli esseri umani ci sono pochissimi studi, nessuno studio sistematico, ci sono così dei case report, si chiamano, cioè casi singoli. Descritti. In cui erano state viste con l'ecografia del fegato dei segnali tipo aria all'interno del fegato, però sono tutti su cose così riportate occasionalmente, non c'è nessuno studio sistematico. Ma potrebbe esserci una non embolia a livello polmonare, insomma, e invece qualcosa che parta dal fegato autonomamente, oppure sono in sequenza? No, sono in sequenza. Quindi, okay. Cioè, in questo modello si forma l'embolia classica con l'embolizzazione del polmone, parallelamente a questa c'è l'embolizzazione anche del fegato. Ecco, un'informazione così importante per voi medici può servire ovviamente per quelle che sono poi le cure. Le possibili terapie dopo un trauma di questo genere. Dei subacquei. Si può fare qualcosa? Sì, allora il secondo studio che abbiamo fatto è sempre in questo modello animale, di vedere se con l'ecografia era possibile vedere queste bolle nel fegato, senza dover esaminare il fegato al microscopio. La risposta è sì. Quindi con l'ecografia del fegato è possibile vedere se in effetti il fegato è embolizzato, cioè contiene bolle di gas oppure no. Quindi, se ho capito bene, non si dovrebbe più fare un'indagine invasiva, quindi con delle biopsie, ma attraverso l'ecografia si riuscirebbe, insomma, a capire il danno. Sì. Ho capito. Volevo chiederle questo, ma potrebbe esserci un effetto, insomma, abbastanza importante, quindi grave, anche tempo dopo? Sì, perché queste bolle, come avviene nel polmone, essendo più grandi della rete capillare, si bloccano lì. Sì. La differenza è che nel polmone vengono poi eliminate perché sono a contatto con l'aria che viene respirata. Nel fegato no. Quindi certo. Un vaso viene bloccato, non passa più sangue e quindi il tessuto a valle non riceve sangue, non riceve ossigeno e quindi può essere danneggiato. Allora, la settimana scorsa noi abbiamo fatto uno studio alla Sinara sui subacquei, quindi sono umani. 12 subacquei, 12 sub, sì, che hanno fatto un giro a 30 metri di profondità per mezz'ora. È stata fatta l'ecografia prima e dopo. Uh-huh. Ora, i risultati li stiamo analizzando proprio in questi giorni, quindi non so dirvi il risultato, però insomma questa è la linea che stiamo seguendo, quindi quello di vedere se effettivamente in sub che fanno niente di straordinario, seguendo quelli che sono i profili normali, si ha una evidenza di embolizzazione epatica oppure no. Che a profondità inferiori ai 70 metri, cioè 30-40 metri, può avvenire ugualmente oppure c'è una soglia? No, il problema fondamentale è la durata del, come sempre. La durata della permanenza dell'immersione, certo. E soprattutto la velocità con cui si risale. Certo, la decompressione è troppo rapida. La decompressione, infatti esistono tutta una serie di tabelle che i sub seguono e devono seguire proprio per impedire fenomeni di embolia massiva, perché quello che si è visto che anche nei sub che seguono i profili normali, quindi che fanno attività normale, se uno con l'eco va a vedere a livello del cuore si vedono arrivare delle bolle, però queste bolle sono piccoline. No, sono piccoline e non danno problemi proprio per il fatto che poi vengono eliminate. Senta, professor Labate, grazie, buon lavoro, e se ci sono dei risultati, insomma, da dover raccontare, noi siamo qua a disposizione. Va bene, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Adesso vi racconto storie di specie invasive nell'ambiente. La prima. Loro adesso hanno a che fare con il più grande disastro ambientale di tutti i tempi e quindi in Louisiana i problemi sono altri. Però nelle paludi di questo stato, un ambiente naturale molto delicato, ovvero un ecosistema che si regge su equilibri complessi, da qualche anno c'è un animale che sta diventando un bel rompicapo. Sono le nutrie, che qui sono presenti a decine e decine di migliaia e continuano a crescere. Non se ne trovavano così tante nei primi decenni del secolo scorso, ma poi accadde che per sviluppare una certa industria delle pellicce di nutria, alcuni astuti imprenditori ne portarono un certo numero di esemplari qui nelle paludi della Louisiana. E qui la popolazione si espanse. In realtà in quegli anni nessuno capiva alcunché di ecologia e quindi i pellicciai non possono essere troppo criticati. Comunque, fino al 1980 l'industria della pelliccia di nutria è andata avanti. Dopodiché è entrata in crisi. Ovvio, il risultato, nutrie dappertutto. Il guaio è che questo animale può essere definito come un mangiatore di foreste. Provvisto di notevoli dentoni, distrugge i tronchi come se fossero grissini e addio alle piante. Le autorità locali danno oggi $5 per ogni nutria eliminata dai cacciatori, però parliamo di un ecosistema molto grande, attenzione. Si è calcolato che per riportare in equilibrio la situazione ci vorrebbe una cifra di circa 300.000 esemplari eliminati ogni anno. Allora è partita una nuova iniziativa, un bando nazionale per rilanciare dei capi con pellicce di nutria, dei vestiti, insomma. Molti stilisti vi stanno partecipando. Non ci sono solo le nutrie a creare problemi, ci sono anche delle specie vegetali che hanno la capacità di essere terribilmente invasive, ma qui non siamo in Louisiana. Una certa specie di cespugli di more, per esempio, o anche delle edere potentissime, sono specie che ne espellono altre dall'ambiente. Affitta una capra, così si chiama il servizio che una società statunitense dello stato di Washington, siamo in alto e nella costa occidentale, ha lanciato negli ultimi mesi. Le capre mangiano qualunque tipo di vegetale. Questa società affitta 120 capre a $750 al giorno. Uno le porta dove è pieno di cespugli selvatici e questi in una settimana se li mangiano tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, preparatevi che sarà un po' esplosivo. . 16 luglio 1945, deserto di Alamo Gordo nel New Mexico, siamo negli Stati Uniti. Durante il Trinity Test, il test della prima bomba atomica, Enrico Fermi lascia cadere a terra dei pezzettini di carta. Questa operazione gli serve per 1. Verificare l'effetto della bomba sulla gravità, ci scriverete gravità, oppure calcolare la velocità dell'onda d'urto, ci scriverete onda, oppure, terza e ultima possibilità, stimare rapidamente l'energia dell'esplosione e ci scriverete energia, sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La cattiva scienza di Ben Goldacri, edito da Bruno Mondadori. In collaborazione con IBS.it. Senta un po' però, Fabio Toscano, questa coppia Cardano e Tartaglia mi ricorda un po' quelle coppie tipo Stanlio e Ollio, no? È d'accordo? Beh, sì. In parte sì, leggendo le loro lettere e le accuse che si scambiarono, sembrerebbe di sì. Ci può stare, sembra una gag, no, sembra uno di quei film muti in cui si tirano torti in faccia. Esattamente. Pesantemente. Fabio Toscano, storico della scienza. Stiamo parlando però di Cardano e Tartaglia, due grandi matematici del loro tempo. E che cosa è successo? Perché a un certo momento questa coppia entrò in conflitto? Sintetizzando, possiamo dire che nel 1545 Gerolamo Cardano, medico e matematico e molte altre cose milanese, pubblica un testo dal titolo Ars Magna, che è considerato il testo capitale, fondamentale, che segna l'inizio della matematica moderna o quantomeno dell'algebra moderna. E un anno dopo, nel 1546, il bresciano Niccolò Tartaglia pubblica un testo anch'esso molto importante dal titolo Quesiti e invenzioni diverse e Nell'ambito di questo testo, tra le pagine, si leggono degli epiteti non troppo graziosi rivolti a Cardano, tipo? Tonto? Tonto, sì, poveretto, uomo di poco ingegno, uomo di poco sugo, insomma degli insulti consistenti. Io so che alla base di questa diatriba si potrebbe dire Galeotta fu la formula. Sì, direi proprio di sì, Galeotta fu la formula. Ed è una formula molto importante, è la formula che risolve le equazioni cubiche o equazioni di terzo grado, che all'uomo della strada può dire anche poco, però si tratta di un momento fondamentale della storia della matematica, perché è il primo risultato matematico originale, perlomeno nel campo dell'algebra, dai tempi dei babilonesi, dopo 3000 anni. E questo risultato fu ottenuto da Tartaglia nel 1535, e Cardano per molti mesi, per molto tempo, implorò Tartaglia di rivelargli questa formula, perché la voleva pubblicare in un suo testo di matematica. A un certo momento, dopo tante lusinghe, tante preghiere, Tartaglia accetta di rivelare la sua formula a Cardano, però Cardano giura sui Vangeli di non rivelarla mai a nessuno. E invece la pubblica. No, ma un momento. Cardano chiede a Tartaglia di rivelargli la formula, così come in un rapporto tra addetti ai lavori, tra scienziati. Esattamente. E invece poi la pubblica e non dice che è di Tartaglia. No, invece lo dice, anzi, fra l'altro poi Cardano ha anche, come dire, l'avventura di scoprire che questa formula era già stata trovata agli inizi del Cinquecento, senza che lo stesso Tartaglia ne fosse a conoscenza, da un tal matematico bolognese, Scipione Dal Ferro. E questa formula era andata perduta perché Del Ferro l'aveva tenuta segreta, e così voleva fare Tartaglia. Ho capito. Allora Cardano, una volta che scopre che la formula in realtà è già stata trovata prima di Tartaglia, e avendo lui stesso poi ottenuto un sacco di nuovi sviluppi matematici relativi a questa formula, lui e il suo collaboratore Ludovico Ferrari decide di pubblicarla, però non tace il nome di Tartaglia. Sì, però ha creato una situazione per cui è sminuito il ruolo di Tartaglia fortemente, così. Sì, in parte sì, e comunque non accenna nel suo libro che aveva giurato ai sacri Vangeli di non rivelare la formula. E quindi Tartaglia si è arrabbiato, e non poco. Esattamente. Beh, un certo tipaccio però Cardano. Senta, ma il clima tra matematici in quegli anni vede in Cardano e Tartaglia un caso unicum oppure no? Oh no di certo. Prima ho accennato al fatto che non solo Tartaglia volesse tenere segreta la sua formula, ma anche questo bolognese un po' oscuro, Scipione Dal Ferro, che l'aveva trovata prima di lui. In effetti all'epoca, stiamo parlando del Cinquecento, siamo in epoca rinascimentale, i matematici italiani tendevano a tenere segreti i loro risultati, perché li usavano durante le disfide matematiche che perversavano all'epoca, e quindi succedeva che in queste sfide, che erano proprio come delle specie di tornei cavallereschi però matematici, due duellanti si fronteggiavano a colpi di risoluzione di problemi. Uno proponeva di solito una trentina di problemi a un altro, l'altro era chiamato a risolverli entro un certo tempo, e inoltre doveva proporre a sua volta altri problemi all'avversario. Chi alla fine di un tempo, diciamo, prefissato avesse risolto il maggior numero di problemi sarebbe stato il vincitore. Senta, ma giravano anche un po' di soldi alla fine dei tornei? Giravano soldi, e soprattutto questo era il modo di fare carriera all'epoca, mentre oggi si devono pubblicare articoli su articoli e così via. all'epoca la stampa esisteva già, però insomma era ancora una cosa giovane, e comunque i matematici, specie ripeto italiani, facevano carriera acquistando punti e prestigio con queste disfide matematiche. E quindi, chi vinceva tante disfide, sì, poi acquistava prestigio e anche cattedre. E quindi gli animi era molto importante, e gli animi erano sempre frizzantini, molto scaldati. Sì. Cardano e Tartaglia e la diatriba sulla formula Galeotta. Grazie Fabio Toscano e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Per chi volesse approfondire questa storia e saperne tutti i dettagli, Fabio Toscano ha scritto un libro, La formula segreta, edito da Sironi. Posso farvi sentire 30 secondi di violino? Ascoltateli con grande amore, perché provengono da uno strumento che ha 269 anni e che è suonato molto raramente. Ascoltate. Ha un nome questo violino, un nome che gli è stato dato dal mondo del collezionismo, Vieux Temps, vecchi tempi in francese, ed è stato costruito da Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri. Chi ora in ascolto se ne intende di musica sa che un Guarneri è un oggetto senza valore. No, a dire il vero ce l'ha. Il Vieux Temps è stato valutato per un'asta 18 milioni di dollari. Guarneri e Stradivari, più noto quest'ultimo, sono le star assolute nella storia della strumentistica musicale. Ilya Kaler, grande violinista contemporaneo, è il musicista che avete prima sentito all'opera con il Guarneri, suonato con commozione perché il suo proprietario, Goffrey Fouché, glielo ha concesso. Ci sono un paio di strumenti oggi al mondo che hanno questa grandezza nella sonorità, non di più, ha commentato Kaler dopo la sua esibizione. Da tempo la scienza studia la sonorità dei violini e sono state prodotte delle teorie su come sia possibile ottenere una elevata qualità sonora. Queste teorie si sono anche tradotte in importanti suggerimenti per le tecnologie costruttive degli strumenti. Si è raggiunta una buona qualità media nella produzione di violini, questo è stato il risultato. Ma ancora oggi non si è capito quali siano le differenze fra un buon violino e uno fuori standard come il Guarneri che abbiamo appena ascoltato. Un team di ingegneri acustici dell'Università inglese di Cambridge sostiene che al momento il mistero permane, mentre suonando e ascoltando la differenza si coglie come. E hanno fatto un accordo con Fish, il collezionista, per studiare con molta attenzione il meraviglioso strumento. Merita ricordare che il violino e il suo suono hanno da tempo suscitato grande attenzione da parte degli scienziati. Nel 1862 ci si mise anche il grande fisico tedesco Hermann von Helmholtz, il quale osservò le vibrazioni delle corde con uno stroboscopio, che è uno strumento il quale, con la produzione di flash in rapida sequenza, è in grado di fermare i movimenti dal punto di vista visivo di ciò che vibra o ruota velocemente. Il violino, si tenga presente, è in grado di produrre frequenze che vanno da 196 Hz a 20.000. Il problema di fondo che gli scienziati devono risolvere è capire molto meglio di quanto si sappia ora come sia il meccanismo che trasforma le vibrazioni delle corde in risonanza della cassa. Quello che si sa è sufficiente a costruire degli ottimi violini. Per farne di eccezionali ci vuole più conoscenza, e in qualche modo, se ci pensate, questo porterà a scoprire un segreto, quello che custodiva, probabilmente in modo inconsapevole o forse no, chi può dirlo, Bartolomeo Antonio Giuseppe Guarneri nella metà del Settecento. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Robot però piccoli che nuotano, ma non nell'acqua, o meglio, non in mari e laghi, però potrebbero anche nuotare nell'inchiostro o nel sangue. Insomma, sentiamo Chiara Albicocco. A partecipato recentemente ad un aperitivo scientifico in un bar prestigioso di Trieste organizzato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, che è anche il centro di ricerca per cui lavora, ecco, spiegando ad un vasto pubblico il significato del suo lavoro. Ora, stasera vorrei che lo spiegasse anche a noi di Mebius. Lui è Luca Eltai, intanto benvenuto. Grazie mille. Lei è appunto ricercatore della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, e devo dirlo, lei è personal trainer di micro nuotatori robot. Esattamente. Bene, esattamente. Il nome è altisonante, però in realtà la mattina si alza, va in laboratorio e cosa fa? Beh, dunque, è un po' difficile da spiegare in due parole, però cercherò di farlo in maniera semplice. Sì. Allora, quello che facciamo è progettare sostanzialmente piccoli nuotatori artificiali, ci sono diversi range di applicazioni in cui questi sono utili, e dopodiché quello che cerchiamo di fare è prendere spunto da quelli che sono nuotatori biologici microscopici, quali non so, ad esempio dei batteri piuttosto che gli spermatozoi o altro tipo di nuotatori di questo genere, e costruirne, ecco, degli equivalenti artificiali, ecco. Quindi l'ordine di grandezza è questo? Sì, l'ordine di grandezza, diciamo, è intorno al micron o qualche micron, qualche milionesimo di metro per intenderci, o anche più piccoli, insomma. Ci sono articoli ultimamente usciti su riviste scientifiche che parlano di nuotatori artificiali anche più piccoli, però stiamo parlando di cose molto futuristiche in questo momento, è una ricerca molto di avanguardia. Ecco, sembrerebbe che proprio nuotare per questi microorganismi così robotici, artificiali, è un po' come per noi nuotare nelle sabbie mobili, quindi molto complicato, molto impegnativo. Esattamente, molto complicato. Beh, diciamo che uno dei motivi per cui ciò è molto complicato è che tutto quello che è il nostro intuito nel nuoto, quello, l'intuito comune di come noi facciamo nuotare all'interno dell'acqua, ha queste grandezze, quindi quando si parla di grandezze microscopiche o di velocità molto piccole, perde completamente di significato, nel senso che diventa molto difficile per un nuotatore di queste dimensioni riuscire a spostare il fluido che lo circonda, perché il fluido è molto denso a quelle dimensioni, e quindi diciamo che a livello di fisico perde di significato perdono di significato le forze di inerzia, e diventa fondamentale la viscosità del fluido, e il nuotatore deve combattere contro la viscosità del fluido. È come se noi cercassimo di nuotare nel miele oppure nelle sabbie mobili. Ecco, infatti, difficile. Per renderla semplice, insomma, la viscosità è proprio quasi la consistenza. Noi nuotiamo ogni giorno senza rendercene conto, perché in realtà ci muoviamo in un fluido che, sì, è molto rarefatto, che è l'aria, e la difficoltà che noi abbiamo a muoverci rispetto a l'aria, cioè quando camminiamo nell'acqua, ha più o meno lo stesso tipo di difficoltà che ha per un microorganismo muoversi a quelle dimensioni. Cioè, per noi muoversi nell'acqua rispetto a muoverci nell'aria è molto più difficoltoso, per un microorganismo a quelle dimensioni è molto più difficoltoso nuotare rispetto a quanto noi possiamo fare nell'acqua, ad esempio. Ecco, ma gli allenamenti in che cosa consistono? Cioè, ci sono le bracciate, gli allenamenti, la resistenza, ci sono anche diversi stili? Esatto, ci sono diversi stili, ci sono diversi principi con cui questi nuotatori nuotano, e quello che si cerca di fare è cercare di copiare il più possibile madre natura, quindi studiamo sostanzialmente quelli che sono i comportamenti biologici dei microorganismi e cerchiamo di riprodurli con nuotatori artificiali che facciano delle cose simili a quelle che fa la natura. Ecco. Quindi ad esempio il movimento sinuoso come quello degli spermatozoi, piuttosto che… ci fa qualche esempio? Beh, allora, diciamo che il nuotatore più efficace a questi livelli di densità del fluido, quindi a questi livelli di viscosità, è proprio lo spermatozoo, è uno dei nuotatori più efficaci. E il motivo per cui è efficace è che tutti pensano che la coda dello spermatozoo si muovi in maniera sinuosa, in realtà la coda dello spermatozoo è come se fosse un cavaturaccioli. Ah. E quindi se uno immagina la cosa, in senso nuotare è rotatorio, giusto? Un po'. Esattamente, esattamente. Quindi il nuoto per questi microorganismi avviene come un cavaturaccioli all'interno di un tappo di sughero, esattamente nella stessa maniera. Avanza grazie al fatto che si avvita all'interno del tappo di sughero. E la densità di cui stiamo parlando è la stessa, per cui per uno spermatozoo nuotare all'interno del fluido è la stessa difficoltà che per un cavaturaccio di entrare all'interno di un tappo di sughero. Quindi stiamo parlando di questo ordine di grandezza a livello di difficoltà. Ecco. Ecco, quindi voi insegnate a questi robottini, se vogliamo dire così, o dei microorganismi artificiali a nuotare in questo modo. Esattamente, esattamente. Naturalmente questa è una delle possibilità, poi vi sono altri diversi, vi sono diversi tipi di bracciate, e quello che noi cerchiamo di fare, in collaborazione anche con l'École Polytechnique di Parigi e con l'Università Politecnica di Catalogna, quindi stiamo parlando di professori François Lalouge, Marino Arroyo, Antonio Di Simone, collaborazioni internazionali importanti. Collaborazioni sì. internazionali importanti, quello che cerchiamo di fare è ottimizzare il nuoto di questi micro, di questo micro robot, insomma, in senso cerchiamo di in base qual è il target, ci sono, a volte viene richiesto che il nuotatore sia il più veloce possibile, altre volte invece viene richiesto che il nuotatore duri il più a lungo possibile, e in base alle richieste cerchiamo di fare in modo che il nuotatore le soddisfi al meglio possibile. Così è difficilissimo, come si fa? Beh, non è, in realtà non è molto difficile, si tratta di riuscire a formulare il problema in maniera matematica in modo tra virgolette risolubile, una volta che la cosa è riformulata si riesce in qualche modo a fare qualcosa, non tantissimo perché è ancora tutto molto all'avanguardia, è ancora tutto molto difficile, ma si riesce a fare parecchio rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare. E il suo lavoro è tanto affascinante quanto veramente importante, infatti quali sono poi le applicazioni di questi micro nuotatori robot? Allora diciamo che le applicazioni più importanti sono in campo biomedico, basti pensare che i nuotatori artificiali di queste dimensioni possono nuotare all'interno del corpo umano senza grossi problemi, e una delle idee possibili per l'utilizzo di questi nuotatori, naturalmente non esistono ancora a questo livello nuotatori in grado di fare queste cose, ma questo è lo spirito con cui ci stiamo muovendo, è ad esempio quello di portare medicinali all'interno di tumori in maniera molto localizzata e non invasiva, ad esempio, oppure fare la pulizia di piccole arterie all'interno del corpo, e, insomma micro operazioni chirurgiche a livello delle vene, delle arterie e via discorrendo, questo dal punto di vista di applicazioni biomediche. Per l'applicazione biomedica è uno scenario veramente interessante, forse rivoluzionario, possiamo avere un'idea di quali potrebbero essere i tempi in cui queste applicazioni saranno effettivamente utilizzate? Beh, guardi, è uscito un mese fa un articolo su una rivista scientifica molto importante in cui facevano vedere un primo prototipo di nuotatore artificiale della dimensione di un grano di sale. Diciamo che secondo me siamo abbastanza vicini, nel giro di una decina d'anni potremo vedere questi nuotatori effettivamente fare operazioni microscopiche senza aver bisogno di aprire, piuttosto che riuscire a portare medicinali all'interno di tumori e all'interno del corpo umano in maniera molto precisa e molto mirata, senza conseguenze sostanzialmente per il paziente. Ecco. Bene, quindi diciamo che si tratta di ricerca d'avanguardia, ma comunque non qualcosa che succederà domani. Abbastanza prossime, sì. Ecco, sì, e poi diceva altre applicazioni, l'ho interrotta? Applicazioni a livello industriale, ad esempio, quando si tratta di parlare di, quando si tratta di lavorare con fluidi a livello microscopico, nanoscopico, anche semplicemente il gesto di mischiare due fluidi tra di loro è una cosa molto complicata, per cui, non lo so, ad esempio, se uno pensa a quelli che sono i colori di una stampante, quando questi escono dalla testata, dall'ugello della stampante, sono molto piccole, sono gocce di dimensioni piccolissime, e a questi livelli avere un miscelatore che sia in grado di fare un buon lavoro, ad esempio, è una cosa abbastanza difficile, e il lavoro che stiamo facendo è rilevante anche per questo tipo di cose, quindi miscelatori alla nano e al microscala, piuttosto che oggetti che sono in grado di pulire condotti finissimi o microscopici in apparecchiature mediche, biomediche, piuttosto che non so, mi vengono in mente molte altre applicazioni, ma diciamo che la fantasia qui può scorrere. Sì, veramente i settori sono veramente infiniti. Guardi, dottore Eltai, veramente fa un lavoro molto molto affascinante, ci tenga assolutamente informati, e noi qui a Mebius aspettiamo di sapere tutte le novità. D'accordo. Grazie e buon lavoro davvero. Prego, arrivederci. Salve. Le più grandi case automobilistiche mondiali stanno tutte lavorando a progetti di veicoli elettrici, consistente quindi la ricerca per batterie potenti e durature. Alcuni esperimenti significativi sono già in atto e quindi si può dire che questo orizzonte è ormai prossimo. C'è tuttavia una parte di questo scenario che deve ancora emergere con soluzioni visibili, e si tratta delle postazioni di rifornimento. Tecnologicamente il problema non è rilevante perché si tratta di rendere disponibili dei dispositivi che eroghino energia elettrica. Dal punto di vista organizzativo invece c'è indubbiamente molto da fare, ma è anche una buona opportunità per creare lavoro, il che di questi tempi non è cosa da poco. Quando però, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta concentrazione di veicoli, vi saranno centinaia di migliaia di connessioni quotidiane per caricare batterie, cosa accadrà alla rete elettrica principale, quella che deve soddisfare tutta la domanda di energia di un paese? Ebbene, già oggi le reti centrali dei paesi più avanzati sono progettate per monitorare costantemente la variazione della domanda, prelevando energia dove questa domanda diminuisce e deviandola dove aumenta. Si parla infatti di reti intelligenti perché questa capacità di gestire la variabilità dell'intero sistema si esprime di minuto in minuto. Le auto elettriche aumenteranno la domanda, dunque. È facile immaginare, tuttavia, che molti veicoli saranno messi in carica in momenti durante i quali l'utente non avrà bisogno di utilizzarli. Certamente durante le ore notturne, ma anche, per esempio, nei parcheggi di luoghi di lavoro. Ora, se una batteria è in grado di ricaricarsi in un'ora, è altamente probabile che il veicolo resti però collegato all'alimentazione per un periodo più lungo. A partire da questo dato si stanno progettando sistemi di gestione della rete in grado di essere tanto intelligenti da prelevare energia dalle batterie quando queste sono, come dire, inutilmente cariche. Le autonomie dei veicoli elettrici che si stanno progettando saranno dell'ordine di almeno 200-300 km, ma tutti i dati del traffico nelle aree metropolitane danno percorsi quotidiani intorno ai 30-40 km al massimo. Avanza energia in abbondanza, insomma, perché l'auto dia una mano agli elettrodomestici. L'intelligenza della rete sarà anche in grado di calcolare quanto un veicolo alimenterà la rete stessa, con ciò ottenendo una diminuzione dei costi di ricarica. Merita poi ricordare che uno dei problemi principali dell'erogazione di energia elettrica sta nel fatto che questa energia non si può immagazzinare perché le centrali di produzione devono erogare una potenza enormemente superiore a quella che si potrebbe raccogliere in batterie. L'energia elettrica quindi va continuamente prodotta. Ma quanto è grande una batteria fatta da centinaia di migliaia di unità, quelle installate su altrettanti veicoli? L'evoluzione delle tecnologie è decisamente curiosa a volte. Le auto elettriche rappresenteranno di fatto il primo caso di immagazzinamento significativo di elettricità e la rete potrà usare questa immensa batteria sia dandogli ovviamente elettricità ma anche prelevandola per portarla verso altri utilizzi. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso vado in Dubai, non proprio, perché invece c'è il mio ospite, Marco Baccanti. Buonasera, Baccanti. Buonasera da Dubai, con 40 gradi abbondanti all'ombra. Lì fa caldo, però probabilmente lei sarà in un ambiente super protetto e refrigerato, come una struttura di cui parleremo fra poco, è altamente efficiente dal punto di vista energetico in quel luogo. Marco Baccanti, lei è lì, un italiano, proviene però da esperienze di direzione qua in Italia di centri di ricerca in ambito biomedico, no? Sì, esatto. Prima di ricevere l'incarico di cui parleremo dopo, gli ultimi 5 anni sono stato direttore generale della struttura Science Park Trust presso il San Raffaele a Milano e amministratore delegato del Parco Scientifico Biomedico San Raffaele a Roma. Eccoci qua. Allora, la struttura e il progetto di cui dobbiamo parlare si chiama Dubiotech, che mette insieme il Dubai e il Biotech, il biotecnologico. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto del governo di Dubai affidato a Dubai Holding, cioè una finanziaria proprietà dello sceicco Mohammed, che è il ruler di Dubai, sì, e anche vicepresidente degli UAE, degli Emirati Arabi. Un progetto, dicevo, finalizzato alla diversificazione dell'economia, all'attrazione di attività ad alta intensità di conoscenza differenti dal petrolio e nel caso particolare, come dice il nome, l'obiettivo sono le scienze della vita, quindi non esattamente il biotech, ma un'interpretazione un po' più ampia, che include l'industria farmaceutica, le biotecnologie, le macchine per gli ospedali, quindi la diagnostica, la strumentazione scientifica, la cosmetica e il nutraceutico. Quindi veramente uno spettro molto ampio. Aziende europee, per esempio, che lavorano appunto all'interno di questo ventaglio molto ampio, possono avere una certa convenienza, anzi una sensibile convenienza, a venire a operare lì anche con i loro laboratori. E poi il mercato di riferimento sarebbe quello arabo? Sì, essenzialmente le 70 aziende che sono già insediate, che hanno già la licenza in Dubai Biotech, operano da Dubai pensando a una matrice estremamente allargata, pensando a tutto il bacino del Golfo, pensando al Nord Africa, all'Iran, che potete immaginare è molto vicino, e tutto il Levante, come minimo in quest'area che include quindi i grandi mercati dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, della Turchia. In molti casi addirittura Dubai viene scelta per gestire le operazioni addirittura in India, che si trova a 3-4 ore di volo, certo, o in Sudafrica. Perché può essere molto conveniente operare lì? Che vantaggi date voi? Dunque, c'è una matrice di vantaggi dovuti a Dubai stessa e a Dubai Biotech all'interno di Dubai. Certo. Dubai stessa, prima di tutto, è una matrice, è una location preferita dal punto di vista dei vantaggi logistici. Quando uno deve decidere di creare una propria unità nel Medio Oriente, Dubai in genere è la città preferita. Perché? Perché è il posto in cui può spostare il proprio management dall'Europa e qui può stare effettivamente molto meglio che in tante altre località nel Golfo. Perché è molto occidentale lo stile di vita. Molto occidentale, c'è una grande tolleranza, tutte le abitudini locali, come possono essere anche l'uso di alcol o il poter andare in spiaggia liberamente in bikini, sono tutte tollerate, sono perfettamente possibili. Per questa serie di motivi Dubai viene in genere preferita come località in cui costituire una propria società che possa servire per la distribuzione dei prodotti in tutto il Medio Oriente. E parlando adesso invece di Dubai Biotech, all'interno di Dubai, Dubai Biotech è una free zone. Cosa significa essenzialmente? Significa che se io ho bisogno di creare una società negli Emirati, così come in Arabia Saudita o negli altri mercati principali, per legge sono obbligato ad avere un partner locale, un socio di maggioranza che deve avere passaporto locale. Questa cosa, che evidentemente può dare fastidio a grandi multinazionali che devono fare i conti con un signore, con un privato cittadino, e averlo come proprio socio di maggioranza, questa cosa non esiste nel caso delle free zone. Quindi questo spiega già automaticamente l'attrattività di una free zone. Una bella differenza. Detto questo, Dubai Biotech è la free zone per quel tipo di industrie, dicevamo, farmaceutico, biotech, strumentazione scientifica e così via. Ci dico una ultima cosa in conclusione, c'è un palazzo molto grande che avete costruito che è anche altamente tecnologico, no? Soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico, la gestione generale dell'energia. Certo. È stato appena approntato un palazzo di laboratori, 260.000 square feet, quindi in Italia corrispondono a 24.000 metri quadrati di laboratorio, che oltre ad avere tutte le caratteristiche che consentono di utilizzare gli spazi per le produzioni anche più difficili, come in produzioni tipo GMP, Good Manufacturing Practice per il settore farmaceutico, ha anche la caratteristica di essere particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Ricordate che parliamo di un'area in cui si raggiungono facilmente temperature anche di 50 gradi centigradi, in cui tutta l'acqua avviene da impianti di desalinizzazione, quindi con un impatto ambientale e energetico notevole, e quindi all'aver fatto una scelta di questo tipo da parte del governo è molto, molto giusta essenzialmente, perché basta poco per riuscire a far sì che queste grandi strutture immobiliari possano essere energeticamente molto efficienti. E questo qui direi che è stato fatto molto, non poco, tanto. Per una serie di accorgimenti tecnologici che consentono risparmi energetici sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'acqua e soprattutto del condizionamento dell'aria. Grazie Baccanti e buon lavoro. Grazie a voi ascoltatori dall'Italia, arrivederci. Siamo alla soluzione del quiz. 16 luglio 1945, Enrico Fermi lascia cadere a terra dei pezzettini di carta subito dopo, praticamente, cioè nell'istante stesso, insomma, che esplode la prima bomba nucleare. Perché fece questo? La risposta era la 3. I pezzettini, infatti, si distribuirono a terra sotto l'effetto dell'onda d'urto e dal loro spostamento Fermi stimò all'istante l'energia della prima esplosione nucleare, 10 chilotoni. Perché era un dato così atteso? Perché nessuno sapeva quanto potesse essere un'esplosione di questa natura, quanto potesse essere l'energia liberata in un'esplosione di questa natura. La misura precisa fatta dalle apparecchiature fu di 19 chilotoni e quindi Fermi ci andò abbastanza vicino. C'è un'arte del comunicare astuta che riesce a vendere come scientifico qualcosa che non lo è affatto, e qui vendere è in tutti i sensi, ovvero ci girano pure dei soldi. È quello che vi racconta adesso Barbara Gallavotti. In quasi tutte le redazioni esiste un cimitero dei libri. È un angolo in cui i volumi inviati dagli editori per possibili recensioni si stratificano. Alla fine diventano così tanti che quelli in fondo alla pila sono praticamente irraggiungibili. Anche perché spesso, diciamolo, quei mucchi sono fatti da libri poco appetitosi, quindi l'idea di rovistare non è irresistibile. Però non si sa mai. E infatti un po' di tempo fa, scavando in uno di questi cimiteri dei libri, ne ho trovato uno davvero invitante. È stato pubblicato circa un anno fa da Bruno Mondadori e si chiama La cattiva scienza. L'autore è un giornalista del Guardian di nome Ben Goldacre, non Goldrake come supereroe giapponese, ma insomma quasi. Il libro, lo confesso, è stato per qualche mese anche nel mio personale dormitorio dei libri, cioè un tavolo dove tengo i libri che vorrei un giorno leggere. Ma quando finalmente l'ho preso in mano è stato un colpo di fulmine. L'autore analizza una serie di pratiche, credenze e persino purtroppo note usanze pseudomediche che per un qualche motivo riescono a farsi passare per qualcosa con un fondamento scientifico, anche se non ne hanno affatto. Il primo capitolo è dedicato alle pratiche purificanti e disintossicanti ed è talmente esilarante che non ho resistito alla tentazione di parlarvene. Goldacre prende per prima cosa in considerazione degli apparati per pediluvio che avrebbero la stramba caratteristica di risucchiare le tossine facendole uscire dai pori dei piedi, come dimostra il ripugnante color marroncino dell'acqua nella bacinella alla fine dell'operazione. Perché l'unico colore che si addice alle tossine, è ovvio, deve essere marroncino, non può essere verde brillante oppure blu, magari rosso. Ebbene, con un piccolo esperimento casalingo, Goldacre dimostra che il colore marroncino dell'acqua è in realtà banale ruggine. Si è staccata dagli elettrodi di ferro che sono immersi nell'acqua e collegati alla batteria che fa funzionare il marchingegno. Nessuna traccia invece di tossine, anche perché in fondo nessuno sa bene che cosa siano queste tossine di cui sarebbe impregnato il nostro organismo e di cui dovremmo liberarci facendole traspirare dalla pianta dei piedi. Oltre agli inganni più o meno subdoli di cui parla Goldacre, esistono pratiche di purificazione più perverse. Qualche anno fa alcuni personaggi dello spettacolo, non so se lo ricordate, suggerivano calorosamente di depurarsi bevendo la propria urina. Ed è veramente perverso, perché come noto l'urina è proprio la via con cui l'organismo si libera dagli scarti. L'urea poi è un composto dell'azoto che può far bene solo agli organismi vegetali e infatti è usato come fertilizzante. Come nota Goldacre, l'esistenza della disintossicazione è una geniale invenzione commerciale che in qualche modo ci ha convinto che si possano cancellare gli effetti di una vita poco sana, magari mesi passati senza fare sport, consumo di grassi alcolici, mancanza di sonno. E che dire delle pratiche disintossicanti che non sono connesse all'acquisto di un prodotto ma propongono semplicemente proprio una vita sana? Anche qui c'è un sottile inganno. Vivere in modo salutare fa sicuramente bene di per sé, ma l'idea che in qualche modo si possa cancellare il passato è, ahi noi, priva di qualsiasi base scientifica. Ma perché l'idea della purificazione ci pare tanto irresistibile? Forse ci può aiutare a capirlo Massimo Centini, antropologo culturale all'Università Popolare di Torino. Buonasera. Buonasera. Allora, perché sentiamo il bisogno di purificarci? Ma io credo che sia una pratica molto, molto vecchia, che ha un'origine soprattutto di carattere spirituale e che poi è stata in qualche modo rivista, corretta, anche abbassata sul piano del corpo e quindi è entrata a far parte di una dimensione culturale che oggi ci coinvolge un po' tutti. In particolare nella sua versione moderna, come si declina questa idea? Ma io credo che una grossa, un grosso peso sia determinato dalla New Age, che ha certamente avuto un ruolo importante nel diffondere questi principi di purificazione, di rigenerazione, di rinascita, di riscoperta di parti nascoste. E poi indubbiamente oggi più che mai con l'angoscia, la paura dell'inquinamento, dei cibi sofisticati e avanti di questo passo, il desiderio di ritrovare un equilibrio, una purezza iniziale dal punto di vista fisico credo sia perseguito da molti. La cosa buffa è che oggi coesistono almeno due modalità di purificazione. Una è quella piacevole, edonistica, che prevede di coccolarsi tutto sommato, e l'altra è quella punitiva, come quella che suggerisce ad esempio di bere urina. Secondo lei come fanno a convivere queste due modalità? Hanno origini diverse? Ma guardi, io credo che l'idea della purificazione, dell'azione che porta a così acquisire una dimensione più sana, tra virgolette, si basi su un principio molto, molto arcaico e, se vuole, anche un po' sconclusionato, cioè che tutto ciò che fa male, tutto ciò che fa soffrire, tutto ciò che è difficile da prendere fa bene. Per contrasto. No? L'alcol brucia e quindi fa bene, l'olio di fegato di merluzzo è puzzolente, più ne prendi meglio fa, e avanti di questo passo. Quindi esiste abbastanza questo concetto, io credo, che poi, se vogliamo ritornare all'inizio di quello che abbiamo detto, comunque si poggia su una visione che è quella del sacrificio. Io faccio uno sforzo, faccio una fatica, soffro, e questo naturalmente favorisce la purificazione. Vengo premiato. Certo. Grazie Massimo Centini, buonasera. Buonasera. È singolare come quest'ansia di depurare il nostro corpo sia antichissima e come spesso, non sempre, ma spesso si sia espressa in pratiche tutt'altro che purificatrici. Möbius si chiude qui. Alla prossima settimana, buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.